Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Se si hanno a cuore le sorti del pianeta, la parola chiave da qui ai prossimi anni sarà sostenibilità ambientale. Dopo l'accordo sul clima siglato a Parigi, infatti, tutti i 175 paesi partecipanti a COP21 si sono impegnati nell'ambizioso obiettivo di ridurre il surriscaldamento globale entro il 2030. Per far sì che questo si concretizzi, secondo le previsioni, però, sarà necessario intervenire su tutti i settori che causano emissioni di CO2, fra cui quello dei trasporti e della logistica. Una logistica poco efficiente, infatti, oltre a provocare inutili sprechi, agisce anche sull'inquinamento ambientale. Dai combustibili alternativi al ricorso alle nuove tecnologie, agli incentivi per il rinnovo del parco veicoli, sono molte le iniziative promosse per rendere questi processi sempre più sostenibili ed economici. Una politica che in Europa è già stata avviata sia a livello comunitario sia nazionale e che si nutre anche delle singole iniziative virtuose diffuse sul territorio italiano. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Sostenibilità e logistica, un binomio che sta assumendo negli ultimi anni un valore sempre più importante. L'intero mondo dei trasporti è cosciente del fatto che il suo futuro è legato in maniera indissolubile alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità. Ne parleremo spesso nei prossimi mesi per raccontarvi tutto quello che questo mondo sta facendo sul fronte della sostenibilità. Cominciamo oggi in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Paolo Serra, vicepresidente di Reloader Onlus, una piattaforma che si occupa di logistica inversa, e tra un poco vi spiegheremo anche di che cosa stiamo parlando. Innanzitutto, Serra, com'è possibile coniugare logistica e sostenibilità? Beh, questo è il problema dei problemi. Per partire da un dato importante, la logistica è intesa come mobilità di merci e di persone, consuma, fatto 100, l'energia prodotta nel nostro globo, consuma il 33%, cioè un terzo dell'energia serve per muovere merci e persone. Questo la dice lunga sulle responsabilità della logistica in termini di inquinamento e quindi di condizionamento dello stato dell'ambiente. E la sostenibilità della logistica può avere tante strade. Noi abbiamo scelto la strada della ottimizzazione, cioè Reloader ha come punto di partenza il concetto che i mezzi sono purtroppo per il 40% disaturati, cioè la merce più trasportata nel mondo è l'aria. Perché c'è questa disaturazione che comporta un grande insulto in termini di emissioni senza nessun ritorno in termini di utilità. Quindi abbiamo già, come dire, individuato un primo grande responsabile di questo problema, che è il cosiddetto ritorno a vuoto, cioè questi veicoli pesanti che una volta consegnato il loro carico tornano indietro non carichi ma vuoti. E lei giustamente diceva prima, il maggior carico che trasportiamo è l'aria. Tra l'altro c'è un dato Eurostat proprio di queste settimane in base al quale questo è un problema che tocca un quinto del trasporto su strada. Fra un po' parleremo di logistica inversa, di come questa logistica inversa può parzialmente risolvere questo problema. E vi voglio presentare anche il secondo dei nostri ospiti, che è Roberto Tosetto, direttore generale dell'Interporto di Padova, ma anche segretario generale di WIR, che è l'Associazione Nazionale degli Interporti. Tosetto, innanzitutto cominciamo con lo spiegare che cosa sono gli interporti. Gli interporti sono un luogo fisico molto ampio per sua natura, dove la merce che arriva con mezzi e da provenienze diverse sosta come su una piazzola, che è un grande piazzale, per poi essere caricata. Per esempio arriva con un camion, viene parcheggiata e poi prende il treno che la porta da Padova verso Rotterdam, verso una delle qualsiasi destinazioni italiane o straniere o altri porti. Quindi è il luogo deputato alla cosiddetta intermodalità, quindi la possibilità di far viaggiare le merci utilizzando non solo la strada ma anche in questo caso la ferrovia, con risparmi ovviamente in termini ambientali. risparmi in termini anche ambientali e anche di vivibilità delle città, perché è chiaro che questo elimina una serie di mezzi pesanti dalle grandi città o dalle arterie principali, perché trova questo luogo fisico molto ampio e vicino, è collocato ovviamente in forma baricentrica ma alle destinazioni finali, per poi appunto favorire questo trasporto al consumatore finale. Cosa stanno facendo gli interporti italiani e ovviamente a partire dall'interporto di Padova per favorire la sostenibilità? Ecco, questo è un tema molto importante e noi stiamo cercando anche di dimostrare che la sostenibilità ambientale è anche sostenibilità economica, perché minor consumo di carburante riduce anche i costi. Da questo punto di vista tutti gli interporti si stanno muovendo in un ambito legislativo sia nazionale che europeo per favorire questo utilizzo del mezzo ecologico per definizione che è il treno, e che, per tornare anche al discorso tema della puntata di oggi, ha ancora maggiore necessità rispetto al camion di avere traffico bilanciato, cioè deve partire pieno e tornare pieno, certo, per avere anche un ritorno di tipo economico. Da un punto di vista ambientale, noi siamo riusciti a essere un'impresa che produce più energia di quella che consuma. Quindi siamo arrivati a creare un impianto fotovoltaico enorme, circa 240.000 metri quadri sui tetti, quindi evita di consumare territorio. Abbiamo in costruzione 4 gru a portale che vanno a sostituire completamente le gru normali a gasolio. Le gru elettriche complementano poi quell'altro servizio che noi chiamiamo dell'ultimo miglio, che è la consegna dei pacchi in città, quindi dalla zona interporto di centro della grande città, con mezzi a metano, che quindi concentrando certo le consegne di un unico negozio con pacchi di provenienza riducono l'inquinamento e l'emissione di polveri sottili sia da un punto di vista di mezzo, perché usa il metano, ma soprattutto da un punto di vista quantitativo. L'ultimo ingresso e l'ultima strategia che interessa sostanzialmente tutti gli interporti è quella di favorire la diffusione del LNG, metano liquido, che ha un grande vantaggio sia economico sia ambientale, e quindi tutti i camion che andranno a utilizzare questo tipo di carburante avranno un impatto ambientale inferiore. Ecco, da questo punto di vista siamo agli inizi, ma la cosa si sta sviluppando abbastanza rapidamente. Paolo Serra, ritorniamo ad occuparci di logistica inversa, cioè quella logistica che è emersa negli ultimi anni ed è legata al cosiddetto riciclo. Noi siamo abituati a immaginare un prodotto che dal produttore appunto arriva al consumatore. Negli ultimi anni dobbiamo cominciare a pensare anche a tutto ciò che il consumatore produce come scarto o come materiale da riciclo, che deve ritornare nel suo luogo di origine. Ed ecco qui spiegata la logistica inversa. Come la logistica inversa viene in aiuto al tema della sostenibilità? Il riciclo può essere fatto in tanti modi, cioè sminuzzando per esempio gli apparecchi pregiati, i cosiddetti RAE, cioè i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e ricavando le materie prime seconde, che sono in molti casi abbastanza, diciamo, di alto valore. Ma negli altri casi ci sono delle possibilità di riuso, sia a livello del riuso dei componenti, perché nelle apparecchiature i componenti hanno dei cicli di vita differenti, e quindi certe volte sono i componenti superano il ciclo di vita dell'intero apparecchio e quindi possono essere riutilizzati. Quindi c'è questa strada del riutilizzo, del riuso. E poi c'è la strada del refurbishing, cioè della possibilità di riacquistare la sua funzione originaria degli apparecchiature. E in questo senso è nata un'importante iniziativa che riguarda le lavatrici e le lavastoviglie, i cosiddetti grandi bianchi, che appunto si è organizzata per riportare in funzione e rivendere questi rifiuti che altrimenti sarebbero soggetti a un abbandono. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 3 13 e 15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.